Inviti di tipo formale erano tuttavia mancati, perché Will non era mai stato invitato a recarsi a Lowick. Mr. Brooke, in effetti, fiducioso di compiere ogni cosa gradevole a cui Kesebo, poveretto, era troppo assorto per pensare, aveva procurato di portare Ladislav a Lowick diverse volte, non dimenticando nel frattempo di presentarlo altrove in ogni occasione, come un giovane parente di Kesebo. E sebbene Will non avesse visto Dorothea da sola, i loro colloqui erano bastati a far rinascere in lei il senso già provato di un'amicizia con un giovane che era più intelligente di lei, eppure sembrava pronto a subire il suo imperio. La povera Dorothea, prima del matrimonio, non aveva mai trovato molto spazio in altre menti per ciò che le interessava maggiormente dire, e non aveva goduto, come sappiamo, dell'istruzione superiore del marito nella misura in cui aveva sperato. Se parlava con intensità a Mr. Kesebo di qualcosa che la interessava, lui la ascoltava con un'aria rassegnata, come se gli avesse riportato una citazione dal Delectus, a lui familiare dalla più tenera infanzia, e talvolta ricordava seccamente che sette o personaggi antichi avevano intrattenuto simili idee, come se già ci fosse troppa abbondanza di quella mercanzia. Altre volte le diceva che si sbagliava e ribadiva ciò che l'osservazione di lei aveva messo in dubbio. Will Ladislav, invece, sembrava scorgere in ciò che lei diceva più di quanto lei stessa vedesse. Dorothea era poco vanitosa, ma aveva il bisogno delle donne ardenti di esercitare la propria influenza in modo caritatevole, facendo la gioia di un'altra anima. Da ciò, la pura possibilità di vedere Will di quando in quando era come una lunetta aperta nel muro della sua prigione e gli faceva intravedere l'aria piena di sole, e questo piacere cominciò a cancellare la paura di un tempo, per ciò che il marito poteva pensare in merito alla presentazione di Will come ospite dello zio. Su questo argomento, Mr. Kesebo non aveva aperto bocca. Ma Will desiderava parlare con Dorothea da sola e si spazientiva perché l'occasione favorevole tardava a presentarsi. Sebbene il rapporto terreno fra Dante e Beatrice o Petrarca e Laura sia stato minimo, il tempo cambia le proporzioni delle cose e in tempi più recenti è preferibile avere meno sonetti e più conversazione. La necessità scusava uno stratagemma, ma lo stratagemma subiva la costrizione del timore di offendere Dorothea. Alla fine scoprì che voleva fare uno schizzo particolare a Lowick, e un mattino, in cui Mr. Brooke doveva percorrere la strada di Lowick, diretto al capoluogo, Will chiese di poter scendere con l'album per schizzi e lo sgabello a Lowick, e senza farsi annunciare al maniero, si dispose a fare lo schizzo in una porzione da cui doveva vedere Dorothea se fosse uscita a passeggiare. Ed egli sapeva che di solito faceva una passeggiata di un'ora al mattino. Ma lo stratagemma fu frustrato dal maltempo. Delle nubi si accumularono con rapidità traditrice, si mise a piovere e Will fu obbligato a ripararsi in casa. Era sua intenzione, in forza della parentela, entrare in salotto e lì attendere senza farsi annunciare, e alla vista della sua vecchia conoscenza nell'atrio, il maggiordomo disse: «Non dite che sono qui, Pratt. Aspetterò fino all'ora di pranzo. So che a Mr. Kesebo non va di essere disturbato quando è nella biblioteca». «Il padrone è via, signore. C'è solo Mrs. Kesebo nella biblioteca. È meglio che l'avverta che siete qui, signore», disse Pratt, un uomo dalle guance porporine, dedito a vivaci conversazioni con Tantripp, e sovente concordando con lei che per la signora doveva essere una vita monotona. Molto bene. Questa maledetta pioggia mi ha impedito di fare uno schizzo», disse Will, sentendosi così felice che assunse un aspetto di indifferenza con deliziosa facilità. Un minuto dopo era nella biblioteca e Dorothea gli andava incontro col suo dolce sorriso aperto. «Mr. Kesebo è andato dall'arcidiacono», disse subito. «Non so se sarà di ritorno molto prima di pranzo». Non sapeva quanto si sarebbe trattenuto. «Volevate dirgli qualcosa di particolare?» «No, ero venuto a fare uno schizzo, ma la pioggia mi ha costretto a venire in casa, altrimenti non vi avrei disturbato così presto. Pensavo che Mr. Kesebo fosse qui e so che detesta essere interrotta a quest'ora. Allora devo ringraziare la pioggia. Sono così felice di vedervi». Dorothea pronunciò queste semplici parole con la candida sincerità di un bambino infelice che riceve una visita a scuola. «In realtà sono venuto fidando nell'eventualità di trovarvi sola», disse Will, spinto da una forza misteriosa ad essere altrettanto sincero. Non poté trattenersi dal chiedere «perché no?». Volevo parlare di varie cose, come a Roma. È sempre diverso quando ci sono degli altri presenti. Sì, disse Dorotea, col suo tono chiaro e pieno di consenso. Sedetevi. Lei si sedette su un'ottomana scura, con dei libri marroni dietro le spalle, e col suo vestito semplice di qualche sottile stoffa di lana bianca, senza un solo ornamento addosso. Tranne la fede matrimoniale, pareva quasi che avesse fatto il voto di essere diversa da tutte le altre donne. E Will si sedette di fronte a lei, a 2 metri di distanza, con la luce che gli cadeva sui riccioli luminosi e sul profilo delicato ma piuttosto irascibile, dalle curve provocatorie del labbro e del mento. Ognuno guardava l'altro, come se fossero stati 2 fiori che si erano aperti in quel momento. Dorotea, per il momento, si scordò della misteriosa irritazione del marito contro Will. Sembrava acqua fresca alle sue labbra assetate, parlare senza timore all'unica persona che aveva trovato ricettiva. Perché, ricordando il passato attraverso la tristezza, lei esagerava una consolazione trascorsa. Ho spesso pensato che mi sarebbe piaciuto parlare di nuovo con voi, disse immediatamente. Mi sembra strano che vi abbia detto tante cose. Le ricordo tutte, disse Will con l'anima indicibilmente contenta di essere alla presenza di una creatura degna di essere perfettamente amata. Penso che i suoi sentimenti in questo momento fossero perfetti, poiché noi mortali abbiamo i nostri momenti divini, in cui l'amore è soddisfatto dalla perfezione dell'oggetto amato. Ho cercato di imparare tante cose da quando siamo stati a Roma, disse Dorotea. E riesco a leggere un po' il latino e sto cominciando a capire appena un po' di greco. Adesso posso aiutare meglio Mr. Kesabo. Posso trovargli i rimandi e risparmiargli gli occhi in molti modi. Ma è molto difficile essere dotto. Sembra quasi che la gente si sia esaurita per arrivare a grandi pensieri e che non possa mai godere di essi perché è troppo stanca. Se un uomo è capace di grandi pensieri, è probabile che li raggiunga prima di essere decrepito, disse Will con irrefrenabile rapidità. Ma per una certa suscettibilità, Dorotea fu rapida quando lui, e vedendola cambiare faccia, egli aggiunse immediatamente: Ma è proprio vero che le menti migliori talvolta si sono sforzate troppo nell'elaborazione delle loro idee. Voi mi correggerete, disse Dorotea, mi ero espressa male. Avrei dovuto dire che coloro che hanno grandi pensieri si esauriscono troppo nell'elaborarli. Provavo compassione per questo anche quando ero una bambinetta e mi sembrava sempre che l'uso che mi sarebbe piaciuto fare della mia vita sarebbe stato quello di aiutare qualcuno impegnato in grandi opere, così che il suo fardello fosse più leggero. Dorotea fu portata a questa briciola di autobiografia senza rendersi minimamente conto di fare una rivelazione, ma mai in precedenza aveva detto alcunché a Will che gettasse una luce così rivelatrice sul suo matrimonio. Egli non scosse le spalle e in assenza di quello sfogo muscolare pensò, con irritabilità ancora maggiore, a delle labbra stupende che baciavano dei sacri teschi ed altre stupidaggini custodite nei reliquiari ecclesiastici. Inoltre dovete fare attenzione perché le sue parole non tradissero quel pensiero. Ma si può facilmente esagerare nell'aiuto, egli disse, e stremarsi a propria volta. Non state troppo chiuse in casa? Già, avete un aspetto più pallido. Sarebbe meglio che Mr. Kesabo avesse un segretario, potrebbe facilmente trovare qualcuno che gli farebbe la metà del lavoro. Ciò lo risparmierebbe di più e voi dovreste solo aiutarlo nelle cose più leggere. Come potete pensare questo? Disse Dorotea in tono di sincera protesta. Non mi resterebbe alcuna gioia se non lo aiutassi nel suo lavoro. Cosa potrei fare? Non ho niente di utile da fare a Lowick. L'unica cosa che desidero è di aiutarlo di più. E lui è contrario a prendere un segretario. Vi prego di non tornare sull'argomento. Certamente no, ora che conosco i vostri sentimenti. Ho sentito sia Mr. Brooke che James Chatham esprimere lo stesso desiderio. Sì, disse Dorotea, ma loro non capiscono. Vogliono che io faccia delle gran cavalcate e apporti delle modifiche al giardino e alle nuove serre per riempire le mie giornate. Pensavo che voi poteste capire che la mente di una persona ha altri bisogni, aggiunse con una certa impazienza, e per di più Mr. Kesabo non vuole sentir parlare di un segretario. Il mio errore è scusabile, disse Will. Avete Ai vecchi tempi sentivo Mr. Kesebo parlare come se avesse una gran voglia di avere un segretario. In effetti, offrì a me la prospettiva di quella mansione, ma io non mi rivelai all'altezza. Dorotea stava cercando di ricavare da ciò una scusante per l'evidente repulsione del marito, poiché disse con un sorriso scherzoso: «Non lavoravate con sufficiente regolarità?» «No», disse Will, scuotendo il capo all'indietro, un po' come un cavallo focoso. E poi, allorché il vecchio eccitabile demone gli suggerì di dare un'altra bella stoccata alle ali di tarma della gloria del povero Mr. Kesabo, proseguì: «E ho visto da allora che Mr. Kesabo non ama che nessuno gli controlli il lavoro e sappia perfettamente cosa sta facendo. È troppo dubbioso, troppo incerto di se stesso. Può darsi che io non valga molto, ma lui mi detesta perché non concordo con lui». Will non era privo dell'intenzione di essere sempre generoso, ma la nostra lingua è un piccolo grilletto che di solito è già stato premuto prima che le intenzioni generali possano intervenire a trattenerlo. Ed era troppo intollerabile che i motivi dell'antipatia di Kesabo verso di lui non fossero spiegati a Dorotea. Eppure, dopo aver parlato, si sentì piuttosto imbarazzato per l'effetto che avrebbe potuto avere su di lei. Ma Dorotea rimase stranamente tranquilla. Non si indignò immediatamente come aveva fatto in un'occasione simile a Roma, e la causa era molto profonda. Non si ribellava più alla percezione dei fatti, ma si stava adeguando a percepirli nel modo più chiaro. E ora, quando osservava con fermezza il fallimento del marito e ancora di più la sua possibile consapevolezza del fallimento, sembrava seguire con lo sguardo l'unica strada dove il dovere diviene tenerezza. La mancanza di reticenza di Will avrebbe potuto essere affrontata con maggiore severità se questi non fosse stato raccomandato al suo perdono dall'antipatia del marito, che le doveva sembrare ingiusta finché non avesse trovato motivi più validi. Non rispose subito, ma dopo aver abbassato pensierosa lo sguardo, disse con una certa franchezza: «Mister Kesabo deve aver superato la sua antipatia verso di voi a giudicare dalle sue azioni, e cioè ammirevole. Sì, ha mostrato senso di giustizia nelle questioni familiari. È stata una cosa abominevole che mia nonna fosse diseredata perché aveva fatto quello che chiamavano una mésalliance. Per quanto non ci fosse nulla da dire contro il marito, tranne che era un rifugiato polacco che dava lezioni per guadagnarsi il pane. Vorrei sapere tutto di lei, disse Dorotea. Mi chiedo come abbia sopportato di passare dalla ricchezza alla povertà. Chissà se è stata felice col marito. Sapete molte cose su di lei? No, solo che mio nonno era un patriota, un tipo brillante. Sapeva parlare molte lingue, conosceva la musica, si guadagnava il pane insegnando ogni genere di cose. Tutti e due morirono piuttosto giovani e non ho mai saputo molto di mio padre, tranne quello che mia madre mi ha raccontato. Ma egli aveva ereditato il talento musicale. Ricordo il suo incedere lento e le sue lunghe mani sottili. E mi resta la memoria di un giorno, quando lui era a letto ammalato, io avevo molta fame e avevo solo un tozzo di pane. Che vita diversa dalla mia, disse Dorotea con acuto interesse, intrecciandosi le mani sul grembo. Io ho sempre avuto troppo di tutto. Ma ditemi, com'è stato? Mister Kesebo non avrebbe potuto sapere di voi allora. No, ma mio padre si era presentato a Mister Kesebo e quello fu il mio ultimo giorno di fame. Mio padre morì subito dopo e Mister Kesebo si prese molta cura di noi. Egli ha sempre riconosciuto espressamente che era suo dovere prendersi cura di noi a causa della dura ingiustizia che era stata commessa nei confronti della sorella di sua madre. Ma adesso vi sto dicendo una cosa che non vi è nuova. Nel più profondo della propria anima, Will era conscio di voler raccontare a Dorotea ciò che era piuttosto nuovo anche a lui, vale a dire che Mr. Kesebo non aveva fatto altro che pagare un debito nei suoi confronti. Will era una persona troppo buona per sentirsi tranquillo alla sensazione di essere ingrato, e quando la gratitudine è divenuta una questione di ragionamento, vi sono molti modi per eludere i suoi vincoli. No, rispose Dorotea. Mister Kesebo ha sempre evitato di soffermarsi sulle sue azioni onorevoli. Non pensava che la condotta del marito venisse svalutata, ma l'idea di quanto il senso della giustizia era pesato nei suoi rapporti con Will Ladislav le si impresse forte nella mente. Dopo un attimo di silenzio soggiunse: «Non mi avete mai detto di avere mantenuto vostra madre? È ancora al mondo?» «No», È morta per un incidente, una caduta 4 anni fa. È curioso che anche mia madre sia fuggita dalla famiglia, ma non per amore di un marito. Non vuole mai dirmi niente della sua famiglia, tranne che l'abbandonò per guadagnarsi da vivere da sola. Si diede al teatro, infatti. Era una donna dagli occhi scuri con tanti boccoli e sembrava che non invecchiasse mai. Vedete che provengo da un sangue da entrambe le parti. Terminò Will rivolgendo un sorriso luminoso a Dorotea mentre essa guardava ancora con seria attenzione davanti a sé, come un bambino che veda un dramma per la prima volta. Ma anche sul suo volto eruppe un sorriso quando disse: Questa è la vostra scusa, penso, per essere stato voi stesso piuttosto ribelle ai desideri di Mr. Casaubon, intendo. Dovete ricordare che non avete fatto ciò che egli pensava fosse la cosa migliore per voi. E se egli prova antipatia verso di voi, stavate parlando di antipatia poco fa, ma io direi piuttosto, se ha mostrato di essere rammaricato per voi, dovete tenere conto di quanto sia diventato sensibile per l'effetto logorante dello studio. Forse, continuò assumendo un tono di difesa, mio zio non vi ha detto quanto è stata seria la malattia di Mr. Casaubon. Sarebbe meschino da parte nostra. Perché noi siamo in salute e riusciamo ad avere una gran forza di sopportazione, dar molto peso a delle piccole offese da parte di coloro che reggono un fardello di tribolazioni. Mi insegnate ad essere migliore, disse Will, non esprimerò più lamentele su questo argomento. Vi era una gentilezza nel suo tono che proveniva dall'indicibile contentezza data dalla percezione, di cui Dorotea non era assolutamente consapevole. Che stava veleggiando lontano dalla pura compassione e dalla lealtà verso il marito. Will era pronto ad adorare la sua compassione e la sua lealtà, se lei avesse voluto associarlo a sé nella loro manifestazione. A volte sono davvero stato un tipo perverso, egli proseguì, ma se ci riuscirò, prometto di non fare o dire nulla che voi disapproverete. Questo è molto buono da parte vostra, disse Dorotea con un altro franco sorriso. Allora avrò un piccolo regno dove potrò legiferare. Ma voi ve ne andrete via presto, immagino, fuori dal mio dominio. Vi stancherete presto di stare alla Grange. Questo è un punto che volevo accennarvi, uno dei motivi per cui desideravo parlare da solo con voi. Mr. Brooke propone che io resti in questa zona. Ha comprato uno dei giornali di Middlemarch e desidera che io lo diriga e anche che lo aiuti in altri modi. Non sacrifichereste in questo modo delle prospettive migliori per voi? Chiese Dorotea. Forse, ma sono sempre stato biasimato per aver pensato sempre ai miei desideri per il futuro e non essermi mai impegnato in niente. Ed ecco che qualcosa mi viene offerto. Se voi non voleste che accettassi, ci rinuncerò. Altrimenti preferirei restare in questa parte del paese che andarmene. Non ho nessuno, da nessun'altra parte. Desidererei moltissimo che restate, disse Dorotea, subito con la medesima semplicità e prontezza con cui aveva parlato a Roma. Al momento non c'era l'ombra di un motivo nella sua mente per parlare in modo diverso. Allora, vi prometto che resterò, disse Ladislav. Scuotendo la testa all'indietro, poi si alzò e andò alla finestra come per vedere se la pioggia fosse cessata. Ma un momento dopo, Dorotea, obbedendo a un'abitudine che in lei stava prendendo sempre più piede, cominciò a riflettere che il marito la pensava diversamente da lei e arrossì intensamente al doppio imbarazzo di aver espresso un parere che poteva essere in contrasto col volere del marito e di dover far presente questo contrasto a Will. Egli non aveva voltato il capo verso di lei e ciò rese più facile dire: Ma la mia opinione conta poco su un simile argomento. Penso che dovreste farvi guidare da Mr. Casaubon. Ho parlato senza pensare a nient'altro che i miei sentimenti, che non hanno nulla a che fare col problema reale. Ma ora mi viene in mente: forse Mr. Casaubon potrebbe considerare la proposta poco sensata. Ora non potete attenderlo e parlargliene. Oggi non posso aspettare, disse Will in cuor suo impaurito dalla possibilità che Mr. Casaubon entrasse. La pioggia è completamente cessata ora. Ho detto a Mr. Brooke di non passare a prendermi, preferirei percorrere a piedi le 5 miglia. Attraverserò il prato di Halsell Common e vedrò il luccichio dell'erba bagnata. È una cosa che mi piace. Le si avvicinò in tutta fretta per darle la mano, desiderando ma non osando dire. Non parlate dell'argomento a Mr. Casabot. No, egli non ebbe il coraggio, non riuscì a parlare. Chiederle di essere meno semplice e franca sarebbe stato come alitare sul cristallo attraverso cui si vuole vedere la luce. E c'era sempre l'altro grande timore, di offuscarsi e perdere per sempre di splendore agli occhi di lei. Avrei voluto che restaste, chiese Dorotea con un pizzico di tristezza mentre si alzava e gli porgeva la mano. Anche lei aveva un pensiero che non desiderò esprimere. Will certo non avrebbe dovuto perdere tempo a chiedere il parere di Mr. Casabo, ma incitarlo a questo sarebbe potuto sembrare un comando non opportuno da parte sua. Così si dissero solo arrivederci. E Will lasciò la casa e attraversò i campi in modo da non correre alcun pericolo di imbattersi nella carrozza di Mr. Casabo, la quale tuttavia non si presentò al cancello prima delle 4. Ora poco propizia per fare ritorno a casa. Era troppo presto per trovare la forza morale, annoiato com'era di vestire la propria persona per la cena, e troppo tardi per spogliare la propria mente delle cerimonie e delle faccende frivole della giornata, in modo da essere preparato a fare un bel tuffo nelle serie faccende dello studio. In tali occasioni, di solito, si buttava in una poltrona della biblioteca e si faceva leggere i giornali di Londra da Dorotea, mentre lui stava a occhi chiusi. Quel giorno, tuttavia, rifiutò quel diversivo, osservando di essere già stato bersagliato da troppi particolari della vita pubblica, ma parlò con più brio del consueto quando Dorotea si informò sulla sua stanchezza e aggiunse con quell'aria di uno sforzo formale che non lo abbandonava mai, neppure quando parlava senza il panciotto e la cravatta. Ho avuto la gratificazione di incontrare la mia precedente conoscenza, il dottor Spenning, oggi, e di essere lodato da uno che è a sua volta degno destinatario di lode. Ha parlato con grande generosità del mio ultimo trattato sui misteri egizi, ricorrendo in effetti a termini che sarebbe disdicevole da parte mia ripetere. Nel pronunciare l'ultima frase, Mr. Casabo si piegò sul bracciolo della poltrona e dondolò su e giù la testa, evidentemente come sfogo muscolare, al posto di quella ricapitolazione che sarebbe stata disdicevole. Sono molto lieta che abbiate avuto questa soddisfazione, disse Dorotea, entusiasta di vedere il marito meno stanco del solito a quell'ora. Prima che arrivaste, mi rammaricavo che foste fuori oggi. Perché, cara? Chiese Mr. Casabo, gettandosi di nuovo indietro. Perché Mr. Ladislav è stato qui ed ha accennato a una proposta di mio zio su cui desidererei sapere la vostra opinione. Pensava che il marito fosse veramente coinvolto in questa faccenda. Anche con la sua ignoranza del mondo, aveva la vaga impressione che il posto offerto a Will non era in armonia con la sua parentela e certamente Mr. Casabo aveva il diritto di venire consultato. Questi non parlò, ma si limitò a fare un inchino. Il mio caro zio, come sapete, ha molti progetti. Sembra che abbia comprato uno dei giornali di Middlemarch e ha chiesto a Mr. Ladislav di fermarsi in questa zona a dirigere il giornale per lui, oltre ad aiutarlo in molte altre faccende. Mentre parlava, Dorotea guardava il marito, ma dapprima lui aveva sbattuto le palpebre e infine chiuso gli occhi, come per risparmiare la vista, mentre le sue labbra divennero più tese. Qual è la vostra opinione? Soggiunse piuttosto timida dopo una breve pausa. Mister Ladislav era venuto appositamente per chiedere la mia opinione? Chiese Mister Casabo, aprendo di poco gli occhi con uno sguardo tagliente rivolto a Dorotea. Lei si sentì davvero imbarazzata dal contenuto della domanda, ma si fece solo un poco più seria e i suoi occhi non si sviarono. No, rispose immediatamente, non ha detto di essere venuto per chiedere la vostra opinione, ma quando mi ha fatto cenno della proposta, certamente si aspettava che io ve la riferissi. Mister Casabo tacque. Io ho avuto paura che voi poteste avere qualche obiezione da fare. Ma certamente un giovane con tanto talento potrebbe essere assai utile a mio zio. Potrebbe aiutarlo a operare del bene in modo migliore. E Mr. Ladislav desidera avere una qualche occupazione fissa. È stato rimproverato, dice, per non aver cercato qualcosa del genere e desidererebbe restare in questa zona, perché non ha nessuno che si prenda cura di lui altrove. Dorotea pensava che questo fosse un motivo per intenerire il marito. Questi tuttavia non parlò e lei subito passò a parlare del dottor Spenning e della colazione dell'arcidiacono. Ma il sole non splendeva più su questi argomenti.